Il pensiero che vi rivolgo quest'oggi vi potrà sembrare un po' strano, invece non è strano, è originale. E parto dal libro di Ruth e vuole essere su come ci si saluta. Boaz arrivava da Betlemme e disse ai suoi mietitori: "Il Signore sia con voi." Pensate, non siamo in chiesa. Siamo in Terra Santa, in Palestina, e c'è un saluto tra un datore di lavoro e i suoi mietitori. Gli dice: "Il Signore sia con voi." Ed essi gli risposero: "Ti benedica il Signore." Oggi non ci si saluta più in questa maniera, no? Però qualcosa c'è ancora. E allora io vorrei sottolineare alcuni modi di salutarci affinché possiamo cogliere tutta la pienezza che c'è dentro. Per esempio, io ricordo di aver salutato un po' d'anni fa un mio parrocchiano siciliano verace, no? Lo saluto e lui mi risponde in dialetto: "Sa benedica." Io ho chiesto al suo figlio, dico: "Carmè, ma cosa vuol dire sa benedica?" Era il nostro modo antico di salutarci, no? Quando uno usciva di casa, oggi vai dal papà e dici: "Ciao." Oggi non si dice neanche ciao. Se papà o la mamma ti dicono: "Dove vai?" "A che ora torni?" "Boh." Il nostro modo di salutarci è un po' questo, no? Molto selvaggio. Si saluta, sa benedica. E che cosa si risponde? "Benedito è Dio." Cioè, vossia mi benedica. Si dava del lei, no? Chiedeva il figlio. E l'altro dice: "Benedetto è Dio." Questo modo di salutarci, abbiamo visto che c'è nel libro di Ruth, c'è ancora oggi nel nostro modo di salutarci. Certo, in chiesa, quando io vi dico "il Signore sia con voi", io cerco di guardarvi e di dirvi, ma il più delle volte la gente mi risponde distrattamente, con il tuo spirito. Allora io alcune volte mi fermo apposta e dico: "Grazie." E la gente mi guarda in faccia: "Scusate, ma ti ho detto che il Signore sia col mio spirito e io vi dico grazie." Così anche quando ci scambiamo il segno della pace, no? In genere si fa distrattamente, magari guardando anche dall'altra parte, si stringe la mano, magari si dice che niente, o si dice pace. Io invece ho l'abitudine, voi miei parrocchiani lo sapete, di prendere magari il senso del Vangelo e di tradurlo lì così, insomma, no? Per esempio, se il Vangelo parlava, non so, che il Signore viene, io ti dico: "Accogliamo il Signore che viene." E l'altro ti risponde, guardandoti in faccia: "Salutiamo il Signore che viene," no? Per fare un esempio. E oggi potremmo, stringendoci la mano, dire: "Benediciamo il Signore." E l'altro ti dice: "Benediciamo il Signore," perché c'è questa parola: "Benedetta tu fra le donne." Guardate che c'è anche un po' questo modo nel nostro modo di salutarci. Non nella parola ciao, che come forse sapete è l'abbreviazione di ciao, schiavo. Uno ti stringe la mano e dice: "Ciao." E l'abbreviazione dice: "Schiavo vostro, no? Schiavo tuo." Ma c'è dentro nella parola addio, ci diamo appuntamento a Dio. O come sarebbe diverso dire a uno: "Buongiorno," che magari l'altro ti risponde: "No, no," ma ti risponde alzando la testa. Io normalmente dico: "Buona giornata." Allora l'altra persona, stupita, mi guarda in faccia e mi dice: "Oh, grazie anche a lei." Eppure ti ho detto semplicemente buongiorno, ma dicendotelo con attenzione. Ecco, impariamo, cari amici, almeno dove possiamo, non facciamo gli originali, perché se andiamo in giro poi la gente ci piglia in giro. Però se tu scrivi un augurio adesso che arriva Natale, puoi dire "Buon Natale", ma se qualcuno capisce puoi scrivergli "Santo Natale", no? Capite che non dobbiamo fare gli originali, ripeto, a tutti i costi. Però, per esempio, io quando mando un messaggio di WhatsApp e faccio gli auguri, dico sempre auguri e preghiere. Perché se dico auguri è una parola pagana, augurio. Auguri e preghiere. Ecco, scusate, era un modo, forse se, vi sembra un po'... Ma non è banale, basta fare le cose con coscienza e augurare a uno che il Signore sia con lui e l'altro ti dice e che sia anche con te. È un bellissimo augurio.